Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fire up. Fuck. Do. Fuck. To do. www.askthebenny.com. Ebbene sì, www.astarbene.com, abbiamo risentito la voce di Fela Kuti, la bellissima sigla di Battito Madre, vuol dire che siamo tornati in diretta su astarbene.com. Mister Coli, cazzo, ce l'abbiamo fatta. Ciao Piero, e ciao a tutti i presenti, ciao Exalge. Esatto, a tutti i presenti, ciao e grazie di essere qui a farci compagnia durante questo talk show, che ovviamente abbiamo appena finito di dire, siamo un po' in ritardo, quindi andremo ma abbastanza... Perché in ritardo? Andremo abbastanza di fretta. Perché siamo in ritardo? Perché noi abbiamo deciso che oggi ci saremmo complicati la vita in maniera incredibile, per cui non solo... abbiamo deciso di fare la festa, e questa è la cosa positiva, ma abbiamo deciso di complicarci la vita mettendoci davanti un talk show da preparare e da... insomma c'è anche tutta una parte esatto, che parla di jazz, tra l'altro, il talk show. Ecco, esatto. Oggi il talk show parla di jazz, questo è il tema, perché poi non si può parlare di afrodiscendenze, di musiche folk e popolari senza toccare questo tema. Piccolissimo recap, noi lunedì siamo stati a fare il nostro altro appuntamento mensile a Torino, su Radio Banda Larga a Torino, il set di un'ora che si può recuperare sulla pagina di Battito Madre su Radio Banda Larga Torino. Detto questo, adesso siamo in diretta, io Coli, Battito Madre da Exalge Milano, vi aspettiamo, raggiungeteci, perché tra meno di due ore ci sarà un bel concerto. Al momento non diciamo altro, lanciamo immediatamente, è vero Coli, questo primo pezzo che si intitola Dig This, anzi Dig This con la D, che è anche un po' il messaggio che noi vogliamo mandare a tutti e tutte qui e all'ascolto, cioè è un po' beccati questo e fatelo anche piacere. L'uomo che si chiama Hank Mobley, Dig This, iniziamo la puntata The Jazz Express, Battito Madre, episodio 3 da Exalge. Thank you. e rientriamo in diretta. Questo appunto era Dig This di Hank Mobley, remasterizzata nel 1999, questo bellissimo sax, insomma, più jazz di così è abbastanza difficile. Mentre mi sono ricordato, Cori, che noi prima di entrare nel cuore di questo nostro piccolo talk show espresso, The Jazz Express, abbiamo due compiti. Il primo è salutare Bea, che ci sta ascoltando da Firenze. Quindi ciao Bea, speriamo che ti piaccia questa cosa. E il secondo è fare gli auguri alla mamma di Edo, che oggi ne fa 60. Per cui tanti auguri. Loro sono a cena insieme, ci ha portato via Edo, che non è qui con noi, ma insomma è giusto così. Lo sentiamo vicino, sempre dentro i nostri cuori. E allora, però, appunto, parliamo di jazz oggi, di cui mi piace ad esempio citare questa cosa che diceva Duke Ellington: by and large, jazz has always been like the kind of man you wouldn't want your daughter to associate with. Cioè, il jazz è sempre stato qualcosa come il tipo di uomo con cui non vorresti che tua figlia si associasse. E ci piace iniziare così. Appunto, noi non faremo troppa parola, perché di jazz è stato detto e scritto di tutto da menti molto più preparate e migliori delle nostre. Però ad esempio io, che non so nulla, no, certo, quello che abbiamo scritto secondo me è una buona introduzione all'argomento. Sì, esatto, è un'introduzione molto, di nuovo, espressa, che però a noi serve per inserire il jazz dentro quella che è la cornice concettuale di Battito Madre, cioè jazz come musica afrodiscendente, popolare. E questo. Due dati, diciamo, storici, ma lo sappiamo, abbiamo iniziato praticamente così. Il jazz ovviamente è l'evoluzione distante, ma delle work songs, che poi sono diventate gospel, che poi sono diventate tante altre cose, e poi è nato il jazz. Leggiamo i primi musicisti, beh, insomma, ovviamente non erano in grado, diciamo, di leggere gli spartiti, suonavano a orecchio, è tutto proprio talento puro, istinto musicale puro. Ci piace, come piace fare sempre a noi di Battito Madre, ci piace anche parlare delle parole. Ci piace anche parlare delle parole, perché si dice jazz, che ha un suono, insomma, appunto, una parola con un bel suono, però a noi l'unico significato che le associamo, no, è la musica. Mentre invece la parola jazz viene stampata per la prima volta da un quotidiano nel 1913. Pare che allora forse è una parola di etimologia francese, jaser, cioè gracchiare, fare rumore, perché viene dal... A parte, appunto, ci sono delle zone della Louisiana che sono francofone, in cui si parlava francese nel XVIII secolo, e quella musica lì veniva considerata proprio un rumore sgradevole, cacofonica, per cui forse jazz viene da jazzé francese. E invece forse a New Orleans non era mai stata usata quella parola lì fino al 1917, quando vi arrivò grazie a una lettera che Freddie Keppard spedì da Chicago a John King Oliver, che lui a sua volta la mostrò a Louis Armstrong, e forse questa parola a New Orleans è arrivata così. Pare che forse invece sia nata in zona California, San Francisco, perché è stata stampata nel San Francisco Chronicle nel 13. Forse l'ultima cosa... Posso dirla io, quella più divertente? Bravo, dopo questa pappardella che ha annoiato tutti. Sì, vabbè, lo so, purtroppo è un mio grosso difetto. E jazz è molto simile a jizz, poiché era musica che veniva suonata nei bordelli e nelle case di questo genere. Jazz e jizz, jizz indica la... L'eiaculazione maschile in inglese, e potrebbe essere anche questa. Sì, appunto, una roba sconcia che viene associata appunto ai bordelli. Per chiudere, forse un'altra cosa più innocente, forse viene da jar, cioè vaso, perché effettivamente, no, in quel momento là, super folk, super popolare, le percussioni erano dei vasi, per cui in inglese è to play the jars. Che in realtà immaginiamo nel sud degli Stati Uniti diventa immediatamente to play the jazz, e forse è diventato, forse viene da lì. Insomma, un'altra volta ci troviamo di fronte a una cosa della quale non si riesce in modo molto preciso a identificare le origini e si mischia realtà con finzione, fantasia, c'è un po' questo realismo magico. E sì, andiamo a suonare il prossimo pezzo, perché adesso volevamo riportarci immediatamente nel contemporaneo, mentre noi oggi in sottofondo stiamo sentendo un grande disco jazz degli anni 60, di fine anni 60, che è Stay No Chaser di Thelonious Monk, mentre questa stagione avevamo ottenuto Black Classical Music di Yusef Days, di cui adesso ci andiamo ad ascoltare la title track, che a parte è bellissima, ma manda un messaggio molto forte di quello che è anche secondo noi, no, il jazz. Il jazz è la musica, forse è l'equivalente della musica classica europea, per, insomma, trasposto sulla musica afrodiscendente, perché poi è diventata colta, ma insomma lo vedremo. Adesso diamo uno stop a Mr. Monk e invece diamo un via a quest'uomo che si chiama Yusef Days. Questo secondo me è il disco dell'anno, già dell'anno scorso, si chiama Black Classical Music. Questo feat con Benna e Charlie Stacey, arriva l'afrodiscendente col padre giamaicano, Yusef Days. Thank you. Youssef Days con il suo disco dell'anno scorso 2023, uscito per Brownswood Recordings, etichetta londinese, bellissimo disco, incredibile. Appunto è il jazz adesso, contemporaneo, con quello che piace a noi, con tanta batteria, con tanto groove che si può anche ballare, perché sennò appunto noi, questo è un altro focus, no? Dibattito madre, tendenzialmente ci piace tenere insieme musica e danza e movimento del corpo. Ora, se parliamo di origini del jazz, come stavamo facendo prima, parliamo di nuovo, come insomma, parliamo sostanzialmente di fine 800 e i primi del 900. Adesso ovviamente poi è chiaro che si è evoluto, ovviamente poi i prodotti culturali come la musica di cui parliamo noi qui a Battito Madre viene molto influenzata da quello che succede, da quello che le succede attorno, in un certo senso, no? Per cui è anche questione di contesto, subisce le evoluzioni che provocano le cose che le stanno intorno. Per cui ad esempio un grande fattore è stato negli Stati Uniti a fine anni 20 la depressione economica, il crollo della borsa di Wall Street, che leggiamo posero fine all'età del jazz così come era stata conosciuta fino ad allora. Sì, perché i musicisti jazz, prima di effettivamente che il genere si impostasse, no, nel linguaggio comune, erano musicisti blues e facevano parte delle big band. Chiaro. E ovviamente quando poi tanti musicisti prendono parte di una cosa come proprio l'intrattenimento all'interno di una città, la loro presenza si fa sentire, e nel momento in cui fanno parte di un business che è sorretto dall'economia, dal welfare e tutto quanto, appena c'è un crollo ne subiscono le conseguenze. Certo, casca tutto il sistema. Per cui in questo momento, in contemporanea a questo, c'è anche però l'arrivo e lo sviluppo della tecnica, quindi le radio, perché prima i dischi erano il principale mezzo di diffusione della musica, invece adesso ci sono tante radio che girano che girano i pezzi, i dischi delle orchestre jazz e creano le prime sensation, le prime star di questa musica così come la conosciamo. Ci sono trasmissioni dal vivo che erano proprio fatte negli studi con le orchestre, programmi come ad esempio Let's Dance, a proposito di danza, che fecero sì che i pezzi che venivano lì suonati lì entrassero proprio nelle classifiche musicali dell'epoca, addirittura già in cima. Facciamo di nomi di alcuni artisti di quest'era qui, di anni 30 e 40, cioè l'era delle big band e dello swing. A proposito di swing, il re dello swing era il clarinettista Benny Goodman. Suo rivale invece era Artie Shaw, che mentre il titolo di re dello swing a Benny Goodman era stato dato da altri, ad Artie Shaw se l'è dato da solo il titolo di re del clarinetto, proprio per essere in contrasto con Goodman. Altri nomi che possiamo fare è lo stesso Duke Ellington, Cab Calloway nelle famose notti al Cotton Club. Insomma, questa è l'età dello swing, anni 30 e 40. Che di fatto è la musica di intrattenimento più ascoltata, più seguita, più fruita dal pubblico. Per questo stiamo parlando dello swing, che certo ha una diretta discendenza, ma con quello che di cui trattiamo stasera non è il fulcro. No, certo, poi esatto, noi facciamo un contenitore relativamente grosso in cui parliamo sì di jazz dentro una certa cornice, ma dentro poi succedono cose di cui bisogna parlare. Insomma, leggiamo una cosa importante poi di questi del fatto che le big band crollano, è che dalle big band, quindi dai grandi teatri, si passa alla produzione di musica all'interno di piccoli club, di case appunto di bordelli, si passa dai centri urbani alla periferia, e quindi secondo me è lì che avviene una vera e propria appropriazione da parte della cultura afroamericana del genere. Certo, perché ovviamente bisogna abbassare i budget e quindi meno musicisti, tanta vita notturna anche in quartieri che è una certa, ad esempio la metà degli anni 30, difficoltà economica, una popolazione nera afrodiscendente che comunque già in difficoltà viveva. C'è una famosa rivolta ad Harlem nel 35 che ha fatto sì, in mezzo a tutti gli altri disordini minori, però che quel quartiere lì, come altri in prevalenza nera, si depopolassero di bianchi, e quindi è stato proprio come hai appena detto tu, Coli, si sono appropriati davvero quel popolo di musicisti afrodiscendenti di questa cosa che si chiamava swing, che si chiama in grande, nel grosso contenitore, jazz. Vogliamo fare altri due nomi? C'è la cantante Billie Holiday, c'è Art Tatum, Fats Waller, sono tutti nomi che noi abbiamo sentito tanto, Lester Young. Un nome che non abbiamo fatto, che però invece andiamo adesso a sentire, non è big band ma è swing più minimale, è un pezzo che conosciamo tutti, di una queen assoluta della musica black e non solo, che è Nina Simone, un pezzo iconico che si chiama My Baby Just Cares For Me, che ha esattamente questo ritmo swingato che ci piace tanto. Noi torniamo in diretta su astrolabe.com tra pochissimo, dopo aver sentito la bellissima voce di Nina Simone. My baby just cares for me. Nina Simone, la sua voce, il suo piano, My Baby Just Cares For Me, proprio una delle sue hit, uno dei suoi pezzi più conosciuti. Mentre torniamo in diretta, rientriamo su astralbeni.com e live da Exalge. Ora, i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono abituati a un altro tipo, no, di talk. Però noi oggi siamo un po' di fretta, perché siamo un po' concentrati sulla musica, no? Su quello che succede dopo. Per quello che succede dopo è un bel concerto con Ze in the Clouds e Tricatiempo, che noi adesso abbiamo il piacere, con cui noi adesso abbiamo il piacere di fare due chiacchiere qui in diretta in radio su astarbene.com. E ragazzi, intanto eccoci qui, tra poco succederà questo concerto. Intanto benvenuti, grazie a voi di essere qui. Noi abbiamo appena finito di dire pochissimo davvero, però quello che ci interessa è inquadrare il jazz in una cornice, cioè parlarne come, uno, musica afrodiscendente, due, come musica folk e popolare. Risuona con voi questa cosa? È una visione in cui vi ritrovate? Sì, no, come, dove? Sì, è vero, avete ragione anche voi, è andato di fatto, per cui si può semplicemente darlo per assodato. Folk può esserlo, cioè, ma non necessariamente. Facciamo un passetto indietro. Esatto. Vi va di presentarvi? Presentarmi allora. Vai. Vabbè, sono Stefano Costanzo, Tricatiempo, sono la batteria, diciamo a modo mio, faccio diciamo tecniche estese dello strumento e non so darmi un'etichetta a livello stilistico, perché non mi piace dare un'etichetta alle cose, perché secondo me è un limite a quello che fai, però può essere anche un limite, diciamo il contrario. Cioè, quando mi chiedono che musica fai, devo sempre grosse difficoltà a spiegare, perché mi piace l'attitudine, diciamo, della musica che posso trovare nella canzone italiana piuttosto che nel jazz o nella musica popolare, campana, diciamo. Quindi non riesco a dare un'etichetta a quello che faccio, però sicuramente mi sento, come dire, un improvvisatore che spazia un po', diciamo, in vari generi, pensando però, diciamo, in una forma macro, sempre alla forma canzone, fondamentalmente. Io sono Giuseppe Vitale. Grazie. Ze. Grazie Stefano, scusami. Nasco pianista, poi ho iniziato a scrivere, mi muovo tra il jazz e l'elettronica, cioè sono partito col jazz e poi mi sono spostato più sulla composizione di roba mia, quindi elettronica e non. Negli ultimi anni produco la mia roba spesso con LNDFK, cioè che sta più o meno su tutti i lavori che ho fatto. Eppure io mi riterrei abbastanza improvvisatore, ma lo faccio raramente, e questa serata alla fine è stata concepita appositamente per dar vita a questo progetto che probabilmente si baserà sull'impro. Sì, esatto, la bella cosa è che voi ci raccontavate che volete suonare insieme da tanto tempo, non ce l'avete mai fatto, noi siamo molto felici di potervelo fare qui. Torniamo tra pochissimo in diretta su astralbeni.com con Tricatiempo, Ze in the Clouds. Noi adesso ci andiamo a sentire Stan Getz, perché è sempre bello. Thank you. Stiamo sentendo Stan Getz, Nobody Else But Me, che è, possiamo dire, cool jazz, insomma, jazz di quello molto molto buono. E siamo tornati in diretta su astralbear.com. Questo è Battito Madre, l'episodio 3 The Jazz Express. Siamo qui con Zen The Clouds e Tricatiempo, che con cui abbiamo appena finito, cioè che hanno appena finito di dirci questa cosa dell'improvvisazione, su cui io in realtà vorrei, cioè su cui vorrei restare, perché allora, c'è un libro che si chiama The Freedom Principle, cioè insomma il jazz dopo il 59, insomma è cambiato un po' tutto. Ornette Coleman, Miles Davis, John Coltrane, il principio della libertà, cioè non nessun paletto, in questo caso nessuna prova. Cioè voi siete dei musicisti che si conoscono, che volevano suonare insieme e che questa sera suoneranno insieme per la prima volta in pubblico. Come fate? Come l'affrontate questo? Come vi capite? Come parlate? Raccontateci un po'. Vabbè, penso che allora l'improvvisazione, ci sono vari tipi di improvvisazione e comunque bisogna anche sfatare il mito che non si prova, cioè si prova l'improvvisazione, perché come la musica africana, la musica indiana, che è basata sull'improvvisazione, il flamenco, hanno dei codici e dei, diciamo, dei segnali molto precisi. Poi ovviamente come dire, è sempre una, come se fosse una composizione in tempo reale, però diciamo si basa sull'immediato, l'immediatezza, quindi non è che noi, cioè, no, che, poi che, cioè, sì, che ci sta il fatto che a me piace, cioè, piace lui un sacco, quindi suono proprio fisicamente, cioè, vabbè, lo stiamo facendo insieme per questo, cioè. Poi ci conosciamo, cioè nel senso che non è che non ci conosciamo per niente, cioè magari sappiamo un po' dove andare a parare, diciamo, se. Però è anche vero che magari si improvvisa con perfetti sconosciuti che però magari hanno, diciamo, parlano la stessa lingua in qualche modo. Ti trovi? Sì, totalmente, sì, sì, sì. Però tu, Zé, mi dici mi piace molto lui, mi piace molto Stefano, mi piace molto Tricatiempo. E cosa vuol dire che ti piace? È che sono anni che proprio smatto sui suoi video. E che vorrei suonarci insieme un sacco. Ed è capitato solo una volta, ma in una cosa non nostra, non mia. E che cavolo, voglio, cioè volevo proprio farlo con lui, cioè perché per tutto il suono, perché è un artista, cioè non lo vedo come batterista qua, ma proprio come come l'arte di quel momento, sai? Cioè proprio l'improvvisazione vera, appunto la composizione di quel momento, cioè lui scrive mentre suona. Posso chiedervi se inciderete qualcosa insieme? Sì? Inciderete qualcosa insieme? Stasera tutto. Stasera sì, ovviamente. Vabbè, speriamo, cioè io spero presto. Cioè questo è il precedente. Oh, quindi spero davvero di il Big Bang. Sì. Va bene, allora ci aspetteremo una dedica a Battito Madre su questo disco. La marchetta. Esattamente. Mentre noi allora andiamo a suonarci l'ultimo pezzo della playlist del nostro talk show, che è un pezzo di Zé, che si chiama Buffering Poem, ed è la prima traccia del suo ultimo disco, che si chiama Oportet. o Forte 475, ditelo, esatto, ditelo al microfono questo. Sì, io ho fatto un disco appunto con NDFK per Paolo Fresu l'anno scorso e per svariate ragioni ci abbiamo messo abbastanza a trovare un titolo. O Porte era la parola più significativa in tutti i sensi. Solo che Stefano aveva già un progetto che si chiamava O Porte. E quindi pure per questo ci siamo... Sì, sì, io non lo sapevo e me l'ha detto Linda, quindi... Alla fine pure questa unione parzialmente simbolica. Io volevo anche chiedervi l'origine dei vostri nomi, però magari ne parliamo dopo. Allora, ci sentiamo questo pezzo, poi rientriamo, facciamo altre due chiacchiere e poi insomma succederà tutto quello che succede questa sera a Exalge in Milano. Buffering Poem, LNDFK, Zayn the Clouds. Torniamo in diretta su astralweb.com. Questo è Batti tua madre, l'episodio 3 del Jazz Express. E in realtà torniamo per fare altre due chiacchiere abbastanza veloci. Effettivamente, Cori, era interessante quello che stavi chiedendo. Forse un po' così, però perché Tricatiempo? Perché Zayn the Clouds? C'è un significato nascosto lì dietro? Allora, conoscete The City of God? Il film La città di Dio? Zeze, perché no, cioè, il criminale da piccolo volevo essere sì, e in The Clouds voglio toglierlo dal nome e quindi basta. Cioè, era perché adoravo le nuvole in tempi liceali, ma voglio toglierlo dal nome. Okay. E anche questo è un'anteprima. Perfetto, bellissimo, cioè ricchissimo questo talk show, questa intervista. Pensavo per Giuseppe, cioè, anch'io pensavo venisse da Giuseppe, no? Ci sta. Tricatiempo invece è una parola, diciamo, del napoletano arcaico, che vuol dire aspettare che le cose prendano la forma da sole. è un progetto nato nel 99 ed è, diciamo, una traslitterazione, secondo me, della chill out, no, come termine, che nasceva in quegli anni, e chiamai questo progetto Tricatempo, e poi ha avuto varie formazioni fino a diventare poi il nome, diciamo, il mio nome, quindi viene dal napoletano, da una commedia di Edoardo Scarpetta. Trovai questo termine e mi piacque tantissimo. Zayn the Cloud, Tricatempo, grazie per aver condiviso anche questa chiacchiera con noi in diretta in radio. Noi aspettiamo tra un'ora di vedervi suonare live qui in Exalge. Abbiamo sentito prima Oported, abbiamo sentito Buffering Poem di Ze e NDFK, che è qui anche lei, ma ha fatto la timida, non ha voluto venire a fare una chiacchiera in diretta. Grazie a chiunque sia stato qui con noi per il talk show, all'ascolto, a casa, in macchina, dovunque siate. Questo era Battito Madre, l'episodio 3 del Jazz Express. Noi vi aspettiamo, siete ancora in tempo per venire qui a sentire questo bellissimo concerto. Zayn the Cloud, Tricatempo. Noi siamo qui, tutta notte ci trovate. Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck to do. Fire fuck do. Fuck fuck to do. www.askthebenny.com.